Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta, io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunioni sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Le Bettino, c'era Gigi a Carogna e sopra c'era Renzi a Menzogna. Ma dove? Ma te lo immagini se sugli spalti c'era Pertini? Te lo immagini Pertini? Prendeva la pipa, scendeva giù e prendeva a pipate qualsiasi ultras tatuato. Senti questa sul fatto che la gente si può automedicare, ti giuro, dice così, le persone si possono automedicare. Noi dobbiamo informare la gente che si può automedicare, eliminare i tumori non è fare una chemioterapia piuttosto che un'altra, non è un ospedale più un altro, eliminare i tumori significa eliminare, di bruciare il fossile, bruciare il carbone, respirare merda. Eliminare i tumori significa togliere gli agenti chimici dall'acqua potabile. Eliminare i tumori significa togliere dall'aria tutti i fattori cancerogeni che respiri. Porca puttana, è quella la sanità che vogliamo. L'eccesso di diagnosi. Oggi si fa diagnosi, c'è un eccesso, un'epidemia di diagnosi. Tu hai cose, magari ce l'hai, e con la raffinatezza delle tecnologie che ti vanno a vedere, fanno dei raggi che ti guardano il pelo del culo in 18 punti, possono scoprire delle cose che non ti avrebbero mai dato fastidio nella vita. Però ti dicono c'è una macchietta lì e vaffanculo. Ecco. È come quando il meccanico della macchina dice, guardi, vada, però si può spegnere magari in autostrada. E vaffanculo! La parolaccia è buona, la parolaccia ci vuole perché veicola un concetto con più violenza, lo veicola più semplicemente. E allora noi ci devono solo che ringraziare, non chiamarci i grillini, ci hanno sempre snobbato, i grillini incompetenti, questi grillini comandati dall'alto. E ancora qua, Simo. Ancora Beirut, il signor Dell'Utri. Buonasera a tutti, la Zanzara, caro Parenzo. Beh, guarda, amico mio, dopo aver sentito queste cose agghiaccianti, anche agghiaccianti. Meglio andare a Beirut, guarda. Ma smettila. Ma tu ti rendi conto cosa ha detto? Ma ormai dice qualsiasi cosa, allora Grillo. Ma è un comico. Ma ormai dice qualsiasi cosa in campagna elettorale. Ma è un comico. Se uno deve ridere, ride. Aspetta un attimo che rido. Mi date una risata, per cortesia. Allora uno ride. Se parliamo di politica è un'altra roba. Quando sono in... Ma c'è qualcos'altro sul 3D? Aspetta che rido un attimo perché mi ha fatto ridere. No, aspetta. Ma il 3D c'è qualcosa sul 3D o no? Oh, c'è la storia dei fischi all'inno italiano. Fischiano, i napoletani che fischiano l'inno d'Italia, fossi napoletano l'avrei fischiato insieme a loro. Allora che cos'è? Fratelli di chi? Chi dobbiamo essere fratelli di chi? Fratelli della P2, della massoneria, fratelli della Andrade, della Camorra. Cagliola non risponde al magistrato, Parenzo? Perché non risponde? Non risponde al magistrato. Dovrà rispondere prima o poi, perché voglio dire. Ma è la strategia difensiva, uno può anche non rispondere subito al magistrato. Sì, per dai. Carità, si trova in stato di fermo con un'accusa gravissima che mi auguro riesca. Oh, è il primo giorno di Berlusconi ai servizi sociali. Questo, ai servizi sociali. Senti che cosa gli ha detto un sindacalista, un tale Pippo Fiorito, che ma si tu è presentato. Sai che stasera, sì. Stasera Berlusca va dai miei amici a Tre Lombardia, eh? Vabbè, ma chi se ne frega? Cioè, Pippo Fiorito, un sindacalista. Ecco. Un sindacalista, sì. Si è presentato lì. Sì. E domanda: ma cosa fa di giorno un sindacalista di non so quale sindacato per presentarsi a Cesano Bosconi a rompere i coglioni a Berlusconi? Che fa? Dai, su. Ci fermeremo mai. Berlusconi a San Vittore! Noi lavoratori italiani abbiamo un sogno nel cuore! Berlusconi a San Vittore! Per nome di chi parla lei? Della Confederazione Italiana di Base! Confederazione di cosa? Di base? Dai su ragazzi, ma questi qua. Ah, ma sono i CUB. I CUB, ma andiamo, ma è gente, dai. Ma è gente, ma sono nulla facente, gente che non fa niente dalla mattina alla sera. Beh, per avere magari il tempo di andare a Cesano Bosconi a dire due cazzate. È disoccupato però, poverino. Ah beh, allora guarda, siccome è un disoccupato mi viene immediatamente un moto di cuore, cioè mi viene immediatamente una, come dire, una sorta di compassione nei confronti di questo Pippo Fiorito. Non ti chiedo questo. Senti, senti questo numero uno, senti. Come ha fatto entrare? Con le mie gambe? Qua. Con le mie gambe? Guarda il servizio d'ordine. Ma qui guarda il servizio, lasciamo perdere. Qui tu vuoi, ti vesti da infermiere e vai dentro anche tu. La bene, con noi Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera a lei e a voi. Come andiamo? Vicepresidente del Senato, Parenzo, saluta, omaggio a Gasparri, su. Buonasera, Davide. Caro Gasparri, buonasera, con Parenzo. Grande gioia le comunico che la compagna Innocenzi ha fatto il 10%. non ho capito niente, guardi. Ha detto Parenzo, ripeti a voce alta, Davide, per favore. No, io, ma mi dicevano che si deve. Ho detto, caro Gasparri, che con Nunzio Nobis, con grande gaudio, che la compagna Innocenzi ha fatto il 10% alla facciazza vostra. Ma l'hanno bocciata l'esame, quella che hanno bocciato l'esame, lei dice. Ma che sì, la Innocenzi, vediamo, che ha fatto un buon risultato. Ma no, ma perché c'era Renzi, scusi. Ah, Renzi, per Renzi, certo. Del Consiglio, no? Cioè, il programma l'ha fatto Renzi, le dice. Ma diciamo che Renzi è nuovo in questa fase come capo del governo e fa dei buoni ascolti. Beh, se vedi i precedenti. Secondo me sta rosicando perché non l'ha invitato. No, e poi no, si figuri, io guardi, io voglio essere invitato a Tango, che oramai è il più grande programma della televisione contemporanea. Io mi sto toccando gli Zebedei, i famosi Zebedei. No, per non invitarla, semplicemente per quello che ha detto dopo. Ma no, perché Sky è moderna, è bella. Io so, poi ho tenuto a battesimo anche Sky. Sì. Perché ai tempi della legge Gasparri, della mia gestione ministeriale, si fusero le due televisioni satellitari. Vabbè, adesso non esageriamo. Nacque Sky, sì. Quindi sono stato un po' tenuto a battesimo. Ah, non cioè, l'ho fatta io, l'ho fatta Mardoc. Ah, beh, ecco, meno male, ecco, l'ha fatta il signor Mardoc. Però i permessi li ho rilasciati io. Cioè, Gasparri sta dicendo, caro Parenzo, che senza di lui Sky non ci sarebbe stata. Questa non è la sua dubbio, guardi, non c'è dubbio? Guardi, ma le racconto la storia in un minuto. C'erano due televisioni che andavano male, ma c'è Stream e Telepiù. Progetto di fonderle e di farne una. Mi venne a trovare prima Tarak Benammar, che era un collaboratore di Mardoc, poi venne Mardoc, io ero ministro delle comunicazioni, sì. Allora? Ci presentarono un progetto, noi demmo le autorizzazioni di nostra competenza, poi si dovettero far autorizzare dall'autorità delle comunicazioni e dall'antitrust europeo, che allora era retto da Mario Monti, udite, vabbè, insomma. Noi facemmo la nostra parte e in poche settimane ebbero i permessi di legge, non facemmo nulla di straordinario. Vabbè, secondo Gasparri fu lui, come dire, a creare. Diciamo che la burocrazia ministeriale, invece di metterci mesi e mesi, in tempo rapido diede le risposte che dovrà essere. Senta, però Parenzo diceva una cosa prima, lei rosica un po' per questo successo della sua nemica Innocenzi. No, io guardi, ma quale nemica? È stata bocciata all'esame da giornalista, sì, e quindi ho pensato che tanti giornalisti, bravi, tanti giornalisti. È una velina rossa lei, insomma, sostanzialmente, no? No. Come ci sono le veline e le accuse che hanno fatto al centrodestra, Berlusconi, ma è tutto questo fatto delle donne, lei è un po' è stata sempre la velina. Ma perché la velina rossa, lei dice? Perché una velina è stata scelta lì perché la Caruccia si presenta bene e difatti all'esame da giornalista l'hanno buttata. È più Caruccia che brava. Beh, però adesso, a parte che l'esame da giornalista, caro Gasparri, lei dovrebbe essere uno di quelli che dice che non mi sembra un passaporto fondamentale per fare il giornalista. Vabbè, io invece credo, sono un tradizionalista, sono un po' che continua a difendere l'ordine dei giornalisti, sono giornalista professionista da 85, spero che anche lei lo sia. O non lo è, lei è improvvisatore come lei? No, io sono contrario a tutti gli ordini professionali, per cui non ho problemi. È un'opinione, io rispetto la sua opinione, io ce n'ho un'altra. La zanzara è quell'odioso insetto. E il conduttore? E il conduttore? Perché affonda e Gasparri? Comunque io ho una simpatia istintiva nei confronti di Maurizio Gasparri, non ci posso fare niente. Grazie. Simpatia istintiva che mi viene dal fatto che è spontaneo nelle cose che dice. Cioè, lui... No, ma anche a me è molto simpatico. La signora Innocenzi gli sta sulle palle, evidentemente. Non la apprezza e lo dice apertamente. Niente schermi, niente cose. Pensi a quanti sto antipatico io. Ieri mi sono preso, per esempio, una soddisfazione. C'era l'assemblea dell'Usigrai contro i tagli che sta facendo Renzi alla Rai. E ho potuto dire l'assemblea dell'Usigrai con tutta gente di sinistra, c'erano anche ex parlamentari, esponenti vari, che la legge Gasparri, che in vigore da 10 anni, ha garantito alla Rai di stare facciamo lo sbrodolamento. Leva i soldi e li mette in ginocchio. Va bene, magari pochi soldi, troppo pochi soldi che toglie la Rai. Per me bisognerebbe chiudere la Rai. No, bisogna privatizzare tutto, tranne una rete, tutto privatizzato. Ma lei è sopravvissuta pure a Parenzo, scusi, volete mettere. Vabbè, lei però ogni volta torna su questa cosa. Ormai è roba vecchia, è passato un anno ormai. Ma guardi che Parenzo ha sbagliato tutto, perché stasera Berlusconi, caro Parenzo, è andato ad Iceberg a Tele Lombardia. E lo so, lei invece perde tempo. Doveva rimanere là, trova Berlusconi. Era la fortuna sua. E invece sono qua alla Zanzara a romperle i coglioni, e perciò era meglio andava lì, prendiamo due piccioni con una fava. Scusa Parenzo, ma non vuoi dire niente, perché ha trattato malissimo la tua amica Innocenzi Gasparri prima. Ma no, ma gli dico, voglio dire, intanto stiamo parlando con Gasparri. E beh, che c'è? Scusa, non ho capito. No, Gasparri, che vuoi dire? Che parla? Il suo giudizio su. No, non ho capito, lo stai trattando come Minus Abens. No, ma perché Gasparri la televisione, vabbè, d'accordo, ha fatto il 10%. Inchiniamoci a una ragazza. Adesso non esagerare. Ma una brava collega che ha fatto un prodotto innovativo con Michele. Lui dice Santoro. Perché c'era Renzo. Vediamo la settimana prossima chi c'è. Ma non ti invita perché dici che. Ma no, ma io che faccio il 10%. Ma se sei una massa Auditel. No, voglio dire, ma lascia avere, io non faccio il 10%, dico, ha invitato Renzi che in questo momento, come dire, è un tira. No, è nuovo, è presidente del Consiglio. Diciamo la verità, Renzi tira e Berlusconi no in televisione, diciamola tutta. Ma diciamo che Renzi è più nuovo per questo di proscenio. Berlusconi è uno che in televisione ci è andato tante volte. Per cui in questo momento tira più Renzi che Berlusconi, lo dica. Ma le cose nuove possono sempre attirare un po' di più. E poi non c'è dubbio. Come le donne, Renzi, no? Come le donne. Sì, come diceva quello. Ma Renzi poi adesso, nella fase delle promesse, lui ha detto che il Senato ha detto il falso, quello è un ufficio, non è mica un partito. Ma lo denuncia per che cosa, Gasparri? Lo denunciamo perché o c'ha ragione lui o c'ha. Ma lo denuncia a chi? Io e Calderoni. Ma facciamo una denuncia penale alla magistratura. Penale alla magistratura, sì, per una frase. Come vicepresidenti del Senato, tuteleremo l'onorabilità degli uffici del Senato. Cioè, lei veramente sta dicendo. Veramente sta dicendo che denuncia penalmente Renzi per aver criticato l'ufficio stampa del Senato, l'ufficio studio del Senato. Una denuncia. Calderoni l'ha già annunciato poco fa. L'ho chiamato, siamo messi d'accordo. Faremo una denuncia perché lui ha accusato l'ufficio bilancio del Senato di dire il fatto. Sì, che le agenzie vigili. Calderoni, Renzi o Ridici di Calderoli troverà le frasi di Renzi. Renzi l'ha detto stamattina nella telefonata del Pietro, ha detto che dicono il falso. Io e Calderoli faremo una denuncia penale, all'autorità giudiziaria per accertare se ha detto il falso il Senato o se lui ha detto. Senta, ma il colpo finale di Berlusconi, quale può essere il colpo finale di Berlusconi? Lo sa, perché ha annunciato sto colpo finale, i sondaggi non lo so il colpo finale. Se lo sa, perché prima non lo so, e se lo sapessi non lo brucierei prima. Ma il sindaco di è stata fatta da costruttori interessati al piano regolatore. Vabbè, quindi senza questo... quei voti lui non avrebbe vinto, quindi la sua vittoria elettorale è condizionata dall'apporto di voti interessati. Cioè, e sta non dicendo è stato sta dicendo Conte Pelosi. A me il pesce e le cozze velose che gli hanno regalato e che hanno causato tanta discussione, ma nessuna indagine, non mi scandalizza. Un partito di criminali e latitanti, dice, un partito di criminali e latitanti. E io rispondo a queste offese di Emiliano, che lui è stato eletto grazie a una lista che in cambio di appoggio sul piano innovatore, una lista fatta dal costruttore De Gennaro, lo ha fatto vincere. Quindi lo scandalo del sindaco Emiliano non sono le cozze velose e il pesce, quello gliene potrò pure regalare 10 kg in più alla lista. Vabbè, ma sono cose complesse, locali. Non è complesso, ha fatto un accordo con i costruttori che gli hanno fatto una lista in cambio del piano regolatore di Comodo. Sto dicendo una cosa, cioè, dunque, che sta dicendo? No. Che è mezzo mafioso? Che c'è stata un'alleanza con degli interessi che lui evidentemente ha garantito. Allora, Parenzo, ma tu hai ancora impresso nella tua mente quella roba della Bacchiddu, quella della sinistra? Lei l'ha vista, l'ha visto bene quella foto, Gasparri, del sedere della Bacchiddu? E sai, le dirò di più, ho detto l'altro giorno, ho chiesto i parlamentari di SEL che stavano al Senato, e io ho detto guardate che anche questa è una vittoria poi del Berlusconi. Perché? No. Perché invece di ammannire tutte delle pippe sul comunismo, il viaggio della signora Barbara Spinelli, alla fine questi per far parlare della loro lista hanno dovuto mostrare le terghe della Bacchiddu, mentre invece la tristissima Barbara Spinelli. Che cosa? Le terghe? Ecco. Le terghe. È un'altra definizione, perché io nell'ordine ho detto culo, sedere, lato B, e adesso arrivano le terghe. Il sedere della Bacchiddu, che poi diciamo era sicuramente, diciamo, come? Così, poteva farsi la foto, ma insomma se ne sono visti più sfolgoranti, però certamente era fotografata. C'erano dei sederi quindi migliori di quella della Bacchiddu, diciamo la verità. Ma non era male. Il comunismo ha seppellito definitivamente il comunismo, perché una lista comunista. Poi ma lei l'ha vista la foto, l'immagine di Barbara Spinelli, che è animatrice di questa lista, cercando ha potuto più un culo della Spinelli, diciamo la verità. Che un discorso della Spinelli, ha potuto più il culo, diciamolo allora. Che la faccia della Spinelli. Poi se vuole mischiare le parole lo faccia lei. No, lo faccia lei, l'ha detto lei, l'ho detto io. Per carità, non voglio essere querelato. Come va? Com'è che va? Manica di Picchiatelli! Noi non siamo Picchiatelli! Non siete Picchiatelli? Va bene, i bambini, gli anziani, tanto è lo stesso. Ho staccato il tubo. Serviva? Oh, sì, serviva. La signora è ancora in grado di votare? Sì! È in grado? La riattacco? Sì! Io vabbè calma, state calmo, cosa c'era mai? Un po' di aria. No, vedete che? Ma che figata. Primo giorno di servizi sociali per Berlusconi. 4 ore, dai. Berlusconi che dà del Viagra a un vecchio. La vuoi una mentina blu? No, devo prendere quella per fluidificare il sangue. Credi in questa? Fluidifica da Dio. Ma è blu. Ma prendine una, dai. Prova, manda giù. Provo. Ma provala. Provala. Ma manda giù. Ma vai. Come? Senti da Dio. Come va? Come? Aiuto. Come? Cos'è c'è? Aiuto. Sto male. Ma dai, insomma. Cos'è successo? Ma cosa è successo? È andato giù. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dopo la nuova Tangentopoli sull'Expo, tutti i lavori saranno passati al setaccio lunedì, gli interrogatori dei 7 arrestati. Non risponde al magistrato l'ex ministro Scajola, arrestato ieri con l'accusa di aver favorito la latitanza dell'ex deputato PDL Matacena. Primo giorno di Berlusconi tra i malati di Alzheimer dell'istituto di Cesano Boscone, una fan, un contestatore, centinaia di giornalisti. Scontro Renzi Grasso sui dubbi dei tecnici sulle coperture IRPEF, il premier dicono il falso, il presidente del Senato io garante della loro autonomia. Ricorso alla consulta sulla legge elettorale per le europee, dubbi sulla soglia del 4%, Napolitano preoccupano i populismi. Ha confessato a Firenze l'omicida della donna crocifissa, era l'uomo della porta accanto, dice il procuratore, sospettato di altri 10 casi. Putin in Crimea accolto trionfalmente dalla popolazione, intanto si combatte ancora nell'est dell'Ucraina, 20 morti e Mariupol. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go? Non mi moleste moschito. E Cecchi Paone insiste, caro Parenzo. Cecchi Paone insisto. Dedico. Attimo. Che c'è? Dimmi. Ma che Gaspari c'è? Dov'è? Aspetta, è ancora qui, aspetta. No, perché voglio dire, io sicuramente non passerò alla storia per la guerra dei mondi. Oh, ancora, basta con sta polemica. Però, su Gaspari, ma lo voglio chiedere al pubblico della Zara, per che cosa passerà alla storia? Io, per la legge Gaspari. Capito? Cosa ho detto? E allora la legge Gaspari non sarà la ha storia. Fatto qualcosa più di te, Parenzo, sì o no? Ha fatto qualcosa più di te? Dai, su. Ma ha fatto la legge Gaspari che è andato zitta sotto con l'aiuto di Confalonieri, Berlusconi, eccetera, eccetera. Vabbè, ma adesso questo era un bull, sì, è chiaro. Anche il codice Rocco, mica l'ha scritto solo Rocco. Difatti c'era Rocco e i suoi fratelli, come lei sa. Just let me eat my burrito. Cecchi Paone, dedico la campagna, la campagna elettorale alla mia ex moglie. Io però queste cose, caro Cecchi, le capisco. Però tu al posto, ripeto per l'ennesima volta, perché questa storia del video l'abbiamo tirata fuori noi per primi. Adesso sta impazzando ovunque. Il tuo video elettorale in cui c'è il tuo Pantheon, caro Cecchi Paone, che peraltro è nello stesso partito di Gaspari, si candida anche lui per Forza Italia. Cioè tu sei frocio, sei omosessuale, lo vuoi mettere un maschione lì invece di mettere questo Pantheon che hai messo tutti tranne un uomo. Cioè è un po' ipocrita questa roba qui, Cecchi. Sai che io ho dedicato la mia campagna elettorale non solo a Pannella ma alla mia ex moglie, perché tutti gli omosessuali soprattutto hanno bisogno di una donna importante nella vita, quasi forse più degli altri, perché altrimenti ti manca un pezzo fondamentale. Cristina mi è stata accanto in momenti difficilissimi per tutte e due, poi abbiamo creato un nuovo rapporto per cui abbiamo lei col suo compagno, io con il mio, e facciamo le vacanze insieme. Le donne in questo sono più brave. È la famiglia ideale di Gaspari, e nel suo partito si candida il signor Cecchi Paone. Siamo un partito molto aperto, io non condivido questi orientamenti e queste scelte, però non è che posso criminalizzarle. Non contrasto i comportamenti individuali, credo che la famiglia sia quella fatta da un uomo e una donna, anche perché la natura fa sì che la vita, sì. Cecchi Paone, se non si fossero incontrati un uomo e una donna, non esisterebbe. Ma che c'entra? Neanche lei, neanche io. Ma che c'entra? La vita nasce così. Quindi la coppia, secondo i principi naturali, non solo. Però ha visto che bella famiglia allargata, no? Vanno tutti insieme in vacanza, lui col compagno e la sua ex moglie. Io non sono un fautore di questi modelli, diciamo, perché non è vietato dalla legge, ma non mi sembra l'assetto ideale. Però la campagna elettorale di Cecchi Paone fa tornare Forza Italia ad una Forza Italia in cui, no, Parenzo, una Forza Italia quella liberale, quella. Caro Gaspari, i froci esistono anche nel tuo partito e si candidano pure. Fatelo, allora, ragione, è la modernità. No, lui dice che io da solo. Ci sono persone omosessuali in tutti i partiti, in tutti gli ambiti. Non devono essere assolutamente discriminati. Da voi no. Dopodiché la famiglia, la coppia, il matrimonio, secondo me, sono una possibilità che riguarda l'uomo e la donna, perché possono creare. C'è chi vuole non la pensa così, ma è questo anche nel passato. C'è sempre stato dibattito e discussione. Cioè, fosse stato però, per lei, non l'avrebbe candidato. Diciamo la verità. Fosse dipeso da lei, non si sarebbe candidato. Diciamo che ho un'idea diversa. Lui ha fatto anche dei discorsi sbagliati sulla droga, sì. I giorni scorsi, parlando di legalizzazione da noi, di sostanze, sì, da noi. Impropriamente definite leggere. Il ma che impropriamente leggere? Paone, guidato da me, sta facendo una battaglia contro questo decreto. Ma che c'è sta a fare Forza Italia allora? Che c'è sta a fare Forza Italia? La posizione di Forza Italia è contro ogni forma di legalizzazione di droga. E allora che c'è sta a fare? Un partito che prende milioni di voti, ci può essere anche qualche opinione di A proposito di milioni di voti, vogliamo fare qui una scommessa, Gaspari? Scriviamolo su un bigliettino, anzi diciamolo pubblicamente alla radio, che è più semplice. Io credo che noi saremo un po' al di sopra del 20%. Ma è troppo prudente lei. Dica un numero. 21%. 21. La firma, anche visto il clima di questi giorni e di queste ore. Che clima? Poi casomai migliora. Però insomma, sono a proposito, Emiliano ha scritto in questo momento: oggi eravamo in televisione insieme, non ha detto nulla il pover'uomo che dice ormai solo fesserie. Pover'uomo che dice ormai il pover'uomo. Lei? Come non ho detto nulla? Gli ho detto in faccia che lui è stato eletto grazie a una lista di costruttori ai quali ha fatto il piano regolatore. Adesso cioè, ma sta facendo delle accuse gravissime, sta dicendo. Come lui, però lui è emiliano, quindi è un altro, sarà il sindaco di Bologna, no? No, è emiliano, no. Non sarà Di Bari, è un altro. No, però le assicuro, è lui che rispondendo su Twitter a un tale Donato Colucci. Adesso appena c'ho tempo gli rispondo. Io ho detto che lui è stato eletto grazie a questa lista. Adesso appena riesco a parlare con voi, lei ha detto, prendo l'iPad e no, ma non c'è bisogno. Ma lei sta dicendo, a parte che le ha dato il povero uomo che dice solo fesserie, vabbè. Ma io sono povero, lui è ricco perché è amico dei costruttori, certo. Io sono un povero. Cioè lei sta dicendo che lui è stato comprato con i voti dei costruttori? Lui ha vinto grazie all'appoggio di una lista di costruttori che per motivi di interesse l'hanno appoggiato. Ma è un'accusa gravissima questa cosa qua. Non mi faccia dire di più di questo, ma questo dico. C'è stata un'alleanza con degli interessi. Ma questa qua è una cosa grave, lei dice una cosa gravissima. Ha tratto, no? Evidentemente i suoi programmi erano graditi a questa gente. Io mica ho detto che c'è stato un passaggio di denaro. Beh, lei ha detto che lei erano graditi. Ho capito. Ma con una lista di costruttori. Vabbè, comunque. È un fatto. Senta, che... lei lo sa perché in politica ha avuto successo, Emiliano? Perché? Perché chiuse gli occhi sull'inchiesta arcobaleno che riguardava sprechi della protezione civile che venivano ascritti alla sinistra. Lui ha chiuso un occhio. Cioè, ma lei sta dicendo un'altra cosa, che da magistrato lui non ha indagato sulla sinistra, sì. Quello sta dicendo. Ha rallentato le indagini e poi è stato premiato con incarichi politici. È evidente, ma gliel'ho detto decine di volte questo, guardi. Ma dove ma Emiliano lo sa, televisione, alla radio, dove mi è capitato. Ma e non l'ha mai denunciata, mai? No. No, Emiliano è stato arruolato in politica dopo avere, come dire, indagato con molta benevolenza. No, non indagato. Con molta benevolenza, stavo dicendo, nei confronti di scandali, lo scandalo arcobaleno, protezione civile, Albania e altre robe che riguardavano fasi di governo. Vabbè, senta, un'ultima cosa, Gasparri, se Santoro va alla Rai, lei che fa? Sopravviveremo, sì. Che sopravviveremo fa? A tutto. Scusi, si incatena ma Viale Mazzini, no, che fa? Ma che meccanismo, ma perdo tempo, no? C'è stato, noi siamo cresciuti nell'epoca in cui Santoro stava per Finanmedes, poi per la Rai, che Santoro è un po' affaticato, del resto la Rai è sopravvissuto alle prime serate di Parenzo, vuole che insomma non possa sopravvivere Santoro. Poi quando parlo male di Parenzo lo faccio con affetto. Sì, più Parenzo, meno Santoro, diciamo la verità. Solo Parenzo, Parenzo a tutte a le presto, ore. Ciao. Oggi se non sei Frocio non sei nessuno. Siamo qua dopo aver bevuto solo inizialmente i primi 5 litri di ottima birra di Strasburgo, birra nordica naturalmente, molto apprezzata anche a Roma. Lazio, nazione, il resto è meridione! Lazio, nazione, il resto è meridione! Essere qui a documentare l'ultimo video di Borghezio da Strasburgo per decretarne l'addio. Questo io. Comunque, nel caso. Documento storico. No, je ne regrette rien, no, rien de rien, non ripiangiamo niente, le nostre battaglie identitarie, soli contro tutti, anche al Parlamento europeo. Avec leur tremolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Candidati leghisti al Parlamento europeo. Gianluca Buonanno. Io voglio essere votato, devo andare in Europa a prendere a calci nel culo Schulz. Ma sì, quello è un idiota. Ci sta trattando come delle pezze da piedi. La Merkel è una nazista economica e Schulz è il suo amichetto. Basta. La Merkel, Schulz, perché se vado in Europa, gli rompo il sedere, non che lo fa vedere quella là, gli rompo io il sedere. Roma. Non ho la soluzione per i clandestini, portarli tutti all'asinara, li teniamo lì in quarantena, perché con la possibilità che ci sia l'ebola virus qua rischiamo tutti, lo sai che negli aeroporti c'è il codice rosso adesso? All'asinara li teniamo tutti lì in quarantena e poi ci mandiamo anche la Boldrini. Gli 80 euro, devi spiegare bene che li usiamo poi per le medicine, per curarci la TBC, la sifilide, la scabbia che ci stanno portando i clandestini. Renzi, devi, sì, portano tutte queste cose, l'ebola, la scabbia, a Lampedusa ci mandiamo la Boldrini a pulirli tutti, che così è contenta, se li prendesse a casa sua i clandestini, la Boldrini, si vergogni, andrebbe a pensare che la figlia deve avere la guardia del corpo bella. Com'era la storia? C'è, si è aggiunta anche la sifilide, no? Sifilide, scabbia, ebola. Guarda. Che c'è, Parenzo? No, no, ti voglio dire questo, perché più lo ascolto, più mi viene il ribrezzo. Ma secondo te, adesso, a che cosa può fare di più? Cosa può dire di più oltre a queste oscenità, quest'uomo? Questo povero uomo? Questa persona. Stai dando del povero uomo al signor Buonanno, di più. No, sto dicendo di più. Aspetta, così facciamo che quest'uomo che mendica in giro voti sulla pelle dei clandestini e dei migranti. Ma che pelle, fa politica come gli altri, smettila di fare lo schizzinoso. Una puttanata di più quest'uomo. Smettila. Quest'uomo che si deve vergognare ad andare in giro con quella faccia. Smettila di fare lo schizzinoso. Intanto Berlusconi, primo giorno di servizio sociale, ha parlato di Milan e fatto battute. Pasquale da Salerno, buonasera. Buonasera. È il conduttore? Sì, vabbè, non faccia di nuovo la stessa cosa che ha già fatto quello, perché la fa peggio sicuramente. Pasquale, vai. Vabbè, scusate. Allora, innanzitutto volevo dire che mi è passata la voglia di fare l'intervento che volevo fare, perché da ieri che sto in attesa, quindi mi sono pure scordato di quello che volevo dire. Succede, dire, succede. Succede, vabbè, non fa niente. Volevo dire una cosa a Parenzo su questo che ha appena detto. Perché quando si parla della TBC che viene portata dagli extracomunitari si arrabbia? Perché secondo lui non è vero che in Africa c'è la TBC. Sì, ho capito, ma è un problema sanitario che deve essere risolto dalle autorità, da chi si incarica di controllare gli immigrati, che se, chi se ne frega. Va benissimo. Un'altra cosa, sul fatto dell'offesa frocio, che se uno dice frocio è un'offesa. Secondo me, se uno dice frocio a una persona, si deve offendere uno che, se è etero. Se lo dice a uno etero, si deve offendere. Vabbè. Perché... Pasquale, grazie. Pietro da Milano, buonasera. Pietro. Buonasera, Cruciani. Dica. Volevo parlare di discriminazione territoriale, però volevo chiederle come ha fatto lei a fare questo percorso. Io me lo ricordo una sera a Controcampo in estrema difficoltà con Diego Battantuono. Ma io spesso sono in difficoltà, per cui non mi rompa i coglioni e vado avanti, su. Va bene. Parlando di discriminazione territoriale, volevo chiedere se lei e Parenzo conoscete quella famosa canzoncina che adesso impera negli stadi negli ultimi tempi, dove il mago Tosel, diciamo, la... Senta, adesso qui non è tutti convocati, cioè se lei vuole chiamare la pregiatissima trasmissione del signor Pardo... Sì. Avete fatto sentire il Genta di Borghezio, sì. È assolutamente discriminante invece. Se non... Vabbè, ma lei di che cosa vuole parlare, Pietro? Io non ho capito di cosa sta... Volevo parlare di questa canzoncina, siccome comunque è attuale. Quale canzoncina? Quale? La canzoncina demente, con la filastrocca demente, che neanche all'asilo la cantano, dove dice che c'è un lezzo dove scappa il cane perché arriva il napoletano che non si lava. Ma chi se ne frega? Ma dove l'ha sentita lei questa roba qui? Dove l'ha sentita? Ma è quella per cui hanno squalificato domenica, sì, la curva dell'Inter. Sì, va benissimo. E allora è negli stadi da 15 anni. Guarda, Pietro, io sono purtroppo devo dire la verità, sono d'accordo con te, perché mi sembra questa cosa qua delle squalifiche del campo per un coro una stronzata pazzesca. Andiamo a Milano, Nicola. Buonasera, Cruciani. Dimmi, buonasera. Dimmi. Io telefonavo per quello che ha detto Parenzo in questa trasmissione, lo faccio in tono estremamente pacato ed educato, e anzi saluto anche Parenzo. Ciao, caro. Ovvero la definizione di parole agghiaccianti riferite a Beppe Grillo. Io vorrei dire questo a Parenzo. Beppe Grillo, innanzutto definirlo comico è un grandissimo errore, perché è una professione e noi non definiamo le persone per la professione che fanno. Beppe Grillo rappresenta 9 milioni di persone. Certo. Vabbè, uno non può criticare, non può criticare, scusa Giacomo, uno non può criticare Giacomo, quei 9 milioni di persone che lo votano e che io rispetto, non lo votano per le aperte virgolette stronzate che dice nei suoi pseudo comizi, perché quei 9 milioni sono intelligenti, votano perché ce l'hanno con la politica tradizionale e vogliono dare una sverla a tutti questi politici di professione che hanno fatto quel che hanno fatto. Ragionamento. Ma non credono alle stupidaggini di Grillo sulla la mozzarella deve stare solo in Campania. Non credono a queste cose qui, è evidente. Giacomo. Come Cruciani è un esempio che non l'ha mica votato, che l'ha votato, e non penso che Cruciani l'abbia votato perché non vuole più farsi le radiografie, perché se Cruciani non vuole più farsi le radiografie, perché come ha detto il signor Grillo ci abbiamo troppe, troppe visite mediche, che è vero però, sarebbe un pirla. Che è vero però, che c'è un eccesso di diagnosi, allora non è vero. Fatti più le radiografie, io guarda se ti becco che vai un giorno che ti fai male quando corri a farti una radiografia, ti porto da Casaleggio e ti fai curare da Casaleggio, hai capito? No, però voglio dire, è vero. Dopo le tue maratone del cazzo, vai da Casaleggio, ti fai male e gli dici scusami Casaleggio, mi puoi curare? Arriva quell'altro e dice ma non c'è bisogno, dice cazzo di fare il ginocchio, ma c'è la rete, metti il computer sul ginocchio, dice cazzo ho però un versamento, non è possibile, che ti frega, dice sì però non riesco più a camminare, c'è il computer, l'iPad, Twitter, no, fai così, la prossima volta che ti fai male che ci quando sia fai ti metti l'iPad sul ginocchio e vedi se ti passa. Un eccesso. Rotto le scatole. Risentiamo questa cosa di Grillo sull'eccesso di diagnosi. Mi avete rotto il coglione. Sì, però è anche vero che la gente va troppo a fare diagnosi. Va non troppo... andarci più. Oggi si fa diagnosi. C'è un eccesso, un'epidemia di diagnosi. Tu hai cose, magari ce l'hai, e con la raffinatezza delle tecnologie che ti vanno a vedere, fanno dei raggi che ti guardano il pelo del culo in 18 punti, possono scoprire delle cose che non ti avrebbero mai dato fastidio nella vita. Però ti dicono c'è una macchietta lì e vaffanculo. È come quando il meccanico della macchina dice guardi vada, però si può spegnere magari in autostrada. E vaffanculo. Nicola da Milano, buonasera. Ah, Nicola è la prima al telefono. Giacomo, allora ci siamo scambiati i nomi, dai. Giacomo. Carissimi, buonasera. Vai. Allora, innanzitutto mi manca solo di dare la prima palata di merda al buon Parenzo. In che senso? Nel senso che le minchiate che ha detto sul primo intervento di Grillo sono solo delle minchiate. Perché Grillo ha dato un suo giudizio su Grillo. Adesso stiamo calmi, stiamo tranquilli. No, dai. Lui ha criticato. Ragazzi, ma volete veramente pensare che, per esempio, che questa cosa delle stampanti in 3D sia una cosa applicabile, sia una cosa che risolve la vita delle persone? Dai, è pieno di gente che mi ha scritto che questa storia delle stampanti 3D che possono costruire una casa è ridicola. Certo, magari in piccole cose si possono costruire. Se voi pensate veramente che uno può costruire case di 100 metri quadrati con una stampante, ma di che parliamo? Piccoli oggetti piccolini. Dai, su. Ecco. Comunque, ascoltami, Parenzo. Io vorrei dirti che ti volevo difendere tanto dal tuo collega, ma poi alla fine le palate di merda anche lui ha ragione di mandartele. Perché se a te piace essere pagato per prendere parolacce dagli ma io dico quel che penso, non mi interessa niente. Ma dici le minchiate però. Ma quali sarebbero? Lei non ne ha detta nemmeno una di minchiata. Dica una. No, Cruciani, fermati. Ma non sono io che lo devo difendere, si difende bene da solo. No, dai. Fermatevi un attimo. Beppe Grillo, noi siamo fermi, seduti. Per combattere il cancro bisogna eliminare innanzitutto tutti quei fattori patogeni che ci sono nell'aria e nei prodotti. Ha detto una minchiata? Ha detto cosa? Una cosa agghiacciante? Ma sì, ma chi se ne frega? Ma perché lo deve dire Grillo? Ma chi se ne importa? Cioè, ma che è? Un meteorologo? Un medico? Uno specialista di queste cose? Dai, su! Alla vostra destra la 4x4 che domina la città, l'inimitabile Subaru XV! Alla vostra sinistra, pronta a guidarvi verso ogni meta, l'insuperabile Forester Adventure! Scegli tra Subaru XV e Forester Adventure con 5 anni di garanzia su permuta usato e l'imperdibile finanziamento vantaggio Subaru fino al 31 maggio. Info su subaru.it. Oggi gamma Subaru 4x4 a partire da €19.990, anche venerdì 9 fino alle 21 e sabato 10 negli showroom Subaru che aderiscono all'iniziativa. La Zanzara. Italia bella, Italia che non va, Italia con troppi stella, senza una varietà. Caro David, abbiamo qui alla Zanzara Nino D'Angelo. Ciao Nino, buonasera. Ciao. Come stai? Bene. Dove ti trovi, Nino? Io mi trovo a Lodi, esattamente, in questo momento. A Lodi? C'è un figlio che abita a Lodi che si è sposato la settimana scorsa. Io sono rimasto qui a fare con mia moglie a guardare il cane qua, se ti fa ridere. Nino D'Angelo, un grandissimo, per la prima volta, credo. Sei stato qualche volta ospite da noi o la prima volta? No, è la prima volta. Però mi seguo molto, mi diverte. Posso capo, mi diverte molto. Parenzo, tu conosci Nino D'Angelo, immagino, no? Ma stai scherzando, ma io sono del 76, sono anche cresciuto con le canzoni. Beh, vabbè, adesso ma è il solito lecchinaggio che fa ma sempre. No, ma questo Nino, è vero. Poi dopo non sono cresciuto, sei nato a Padova, cresciuto a Padova, sei cresciuto con Nino D'Angelo. Beh, perché, guarda, che ne dica Grillo, la globalizzazione musicale a Padova arriva, non è che quelli di Napoli ascoltano solo D'Angelo a Napoli, a Padova si ascolta soltanto la musica veneta. Lo segui Grillo, Nino? Io seguo tutto. Ma che te ne pare? È un pazzo scatenato oppure l'Italia? Cioè, no. Immaginati l'Italia in mano a Grillo, cosa sarebbe secondo te? Un delirio? Io non lo so che cosa sarebbe, però poi io rispetto le opinioni di tutti. Non rispetto le esagerazioni, ovviamente. Grillo dice delle cose giuste, però a volte sono un po' pure esagerate. Ma adesso in campagna elettorale è esagerato tutto, solo che questa campagna elettorale è iniziata molto, ma molto prima, è iniziata prima delle larghe intese. Io voglio far fare l'editorialista della Zanzara Nino D'Angelo. No, quante persone l'hai proposto, Rocco, Freddy, Nino. Ogni puntata c'è una persona, più o meno, non è il caso di D'Angelo, che non mi sembra sia uno dei nostri mostri, ma beh, anzi, quindi ogni volta dice chiama. Aspetta, magari dice qualcosa di mostruoso, che ne sai? Sì, sicuramente. Senti, dimmi la verità, ma Jennia Carogna è l'immagine di Napoli in queste settimane. Quanto ti addolora questa cosa di vedere Jennia? Oppure lo assolvi, oppure ha fatto bene, cioè si è dimostrato più ragionevole di tanti politici perché è riuscito a governare la curva del Napoli, caro Nino. Vabbè, allora, la prima cosa voglio dire che io farò il pensiero, tutti i miei pensieri, quello che dico, io non sono qui per rappresentare E chi devi rappresentare? Te stesso. Anche perché ci sono tanti napoletani che si sanno rappresentare più di quanto sappia farlo io. Vabbè. Voglio rappresentare solo me stesso e il mio pensiero, caro Luciano. Sì, e vabbè, quello non c'è bisogno di dirlo, mi sembra chiaro. Perché dice pure Nino D'Angelo, ma si mette a parlare. No, io ho parlato delle cose, di queste cose, ho fatto un film, si chiamava Il ragazzo della cultura. E come no, mi ricordo bene, certo. Te lo ricordi che dove certo. Io facevo proprio il capoltrà. Però tra te e Jennia Carogna mi sembra che sia passato qualcosa, no? Cioè... Sì, però voglio dire, tutto sta andando addosso a sto Jennia Carogna. Ogni squadra c'ha i suoi capoltrà, Cioè ogni squadra c'ha il suo Jennia Carogna, dici? Secondo me sì. Bene, adesso siccome non è possono vero. Sfogare su tutti. E allora, questa è uscita in televisione con quel fisicaccio, con un nome così, non è bello, insomma, essere chiamata Agarogna. Non mi piace Agarogna. Non è bello, per cui tutti Napoli non la può. Cioè ti vergogni di Jennia Carogna, diciamo la verità. No, io mi vergogno di essere rappresentato così, noi non siamo questi, i napoletani siamo un'altra cosa. Dunque ti vergogni di Jennia Carogna, diciamola tutta, cioè, No, non assolutamente, non so i fatti proprio come stanno. Però ho capito, quel tifoso non lo vuole dire, perché giustamente a Napoli dire mi vergogno è pericoloso. Il signor Carogna, se tu dicessi come, io credo che tu lo pensi, noi adesso non facciamo sconti a nessuno, caro Nino, però è chiaro che tu pensi che quell'uomo lì fa ribrezzo, quel personaggio lì. Ma non solo lui fa ribrezzo, tutto il mondo, non voglio dire, non solo quello, ce ne sono tanti di Jennia Carogna, no? Sì, ma in tutte le squadre c'è un Jennia Carogna, però abbiamo visto quello là, con la maglietta speciale libero, tutto grasso, tatuato, con la faccia truce, una famiglia chiacchierata, è l'immagine che ha dato Napoli, perché c'è pure il ragazzo che gli hanno sparato, per carità, non c'è dubbio, però quell'immagine lì un po' ti fa vergognare, o no? Ma certo che fa vergognare a chiunque, però è stata pure molto strumentalizzata sta cosa, no? Assai. No, ma io ho sostenuto, per esempio, che prima ci hanno trattato con quello e poi lo hanno punito con il DASPO, per esempio. Ma io spero che non abbiano trattato, perché uno Stato deve sapere cosa fare, non deve trattare con i tifosi. non pensi che ha deciso a Carogna se si doveva giocare oppure no. Questo io lo voglio pensare che non sia così, perché se invece che ha deciso a Carogna è tutto sbagliato, cioè significa non c'è più lo Stato. Lo so, però purtroppo pare che sia successo. Perché che stavi dicendo, Parenzo? Non ho capito. No, volevo dire che evidentemente, cioè, bisogna dire ad alta voce, se io fossi un napoletano direi davvero ad alta voce che questo Carogna mi fa schifo, ma lo direi proprio tranquillamente, anche perché l'appellativo La Carogna se lo sarà guadagnato sul campo. Ma pare che venga dal padre l'appellativo La Carogna. Beh, verrà dal padre, ma se tu lo vedi di notte per strada camminando per la bellissima Napoli, come minimo cambi parenzo. Direte, io almeno, ma voglio dire, perché mi sembra proprio così dal punto di vista. Però dal punto di vista del comportamento che c'è stato lì, ha fatto bene a tenere sotto bada la curva lì in quell'occasione o no? Per me sì, l'unica cosa che è stata fatta bene è quello, perché poteva, la gente voleva, come ho capito io, sempre, sì, sempre. La gente voleva sapere se il ragazzo era vivo, se era morto, se si può festeggiare, se non si può festeggiare. Comunque, secondo te, caro Nino, io sono di questa opinione qua, forse se segui la Zanzara l'hai seguita, bisognerebbe sciogliere questi gruppi di ultra, sciogliamoli direttamente, su. Io penso che la società si dovrebbe organizzare, trovare le persone che gestiscono poi il tifo, sarebbe meglio, no? Sarebbe meglio, sarebbe più organizzato, si potrebbe. È giusto che il tifoso però ha la sua parola, ma non che deve decidere una partita. Appunto, ma sciogliamo la società, che posso contestare un acquisto. Ho capito, ma chiudiamole ste curve per un po', se non si può riparare. Ah, sì, adesso è diventato un casino, è diventato veramente pericoloso, perché dal calcio si finisce per parlare di altre cose. Io dal calcio ho capito che l'Italia è diventato un paese veramente razzista adesso. In questo momento qua parlano tutti come dei razzisti, la gente c'è un'ambazia. Ma chi dici? Tutti. Sì. Sì, io. Ma tu io, quando io vai in giro ancora c'è un razzismo nei confronti dei napoletani, lo senti? Nei confronti io lo vivo da sempre. Sì, ma ancora oggi c'è un razzismo là in giro nei confronti dei napoletani? Ma niente, bene, c'è questa gente d'Italia che brucia il brandire d'Italia, brucia il tricolore. Che cos'è quello? Ma la Lega ti fa schifo a te? Ma la Lega, io non la penso proprio, la Lega. Cioè, non ma la penso. Salvini non hanno fatto schifo. Di più. Di più. Ma hanno fatto bene a cacciare Salvini da Napoli quando è andato a Napoli Salvini? Secondo me l'hanno trattato pure bene. Cioè, sì, si meritava un po' di mazziate, diciamo, no? No, mazziate no, perché io sono contro la violenza. Però uno che si mette a cantare insieme agli altri tifosi per su via Napoli col fuoco. Sì. Perché non ha dei propri a Napoli, scusa. Gli è andata bene, diciamo, gli è andata bene. Secondo me sì, secondo me. Beh, io a me questo Nino D'Angelo che dice quello che pensa, così, dopo un po' di diplomazia iniziale, caro Parenzo, no? Mi comincia a piacere. Siamo qui, la Zanzara, oggi prendiamo a piene mani, caro Parenzo, dal repertorio di Nino D'Angelo, che ci accompagna ancora per qualche minuto. 800 24 00 24. Beh, io vorrei sapere per chi vota in questo momento il signor D'Angelo, caro Grillo. Grillo, lei è stato sempre uno di sinistra, diciamo la verità. Io? Sento un ritorno, Luciano. Aspetta, mi senti o no? Adesso sì. Ecco, bene, sei sempre stato uno di sinistra o no? Sì, da ragazzino, sì, nella ma mia oggi casa, per chi voti? Papà operaio. Io ho votato sempre. E ho votato sempre l'ultima elezione dal PD. E adesso? Adesso non lo so. Renzi ti piace, sì? Renzi mi piace perché è giovane, però non mi piace come è arrivato al governo. Non mi piace questo fatto che non è passato per elezione. Doveva arrivare con la votazione, sarebbe stato più difendibile anche da parte di chi. Di chi non appoggiava, sì, dall'inizio, sì. E sti 80 euro ti piacciono oppure sono una mancia? Qualcuno dice una roba all'Achille Lauro addirittura, una no, roba. Vabbè, mi piace per quelli là che non hanno proprio niente. No, mi piace perché è facile parlare, è facile che a me dica come servono 80 euro, ma a me, io sono un'altra cosa. Ci sono delle persone che sopravvivono, ho capito, e quella gente la servono. Però qualcuno anche tra i tuoi colleghi è stato accusato accusa Renzi di elemosina. Piero Pelù al concerto del 1° maggio, ti faccio un esempio. E poi Renzi dice: voi siete milionari, non potete parlare. Ma è vero, difatti io l'ho detto, ma a me non servono a niente 80 euro, però non è vero, io penso che ci sono delle persone che fanno comodo 80 euro, però non si possono nemmeno comprare le persone con 80 euro, onestamente. Bisogna vedere l'onestà di questa cosa, se è stata fatta veramente per dare alle persone 80 euro oppure è stata fatta per avere uno spot, per elettorale. Un piccolo spot elettorale. Questo bisogna vedere, ma questo lo fanno tutto a destra, a sinistra. Però l'importante è che i poveri cristi hanno avuto questi 80 euro. Secondo me ai poveri cristi questi 80 euro. Lorenzo, la pensa come te, la pensa. La pensa no, come... ma infatti io però volevo... Perché è una persona sensata, mi pare, a differenza. Ma io penso che... Io te l'ho detto. Per me è una, ma lui è uno figlio spot di operai, te l'ha detto. Lui, figlio di operai, sa perfettamente come è. E adesso è una persona che ha avuto successo. Però dice, una persona di buon senso, non è perché lo dice Nino D'Angelo, può dirlo. Ho capito, anche io non posso, io, ma uno, ho capito, uno che guadagna ha uno stipendio discreto, guadagna 200-300 mila euro, non può dire che questi qua sono è uno spot elettorale senza lo può dire, ma lui capisce che 80, lui come io, vabbè, come dai, molti su. Altri, come 80 euro possono essere un piccolo aiuto. Ma io voglio capire da D'Angelo questo: nel caso, non sarà, non accadrà mai, ma la Lega ti invitasse a suonare a Pompida, no? Nel sacro prato di Pompita, un po' ti vergogneresti. No, non ci andrebbe mai. Ma io sono un italiano, l'Italia per è... Poi uno se te paga, che te frega? Se la Lega ti dà i soldi no. O no? Sì, ma sicuramente magari non sarei molto a mio agio. Ma questo perché loro sono riusciti in questi anni a spaccarla un po' l'Italia, no? A spaccarla, a continuare a dire Roma ladrone per tanti anni, poi alla fine i ladroni erano anche loro, no? Beh, un pochetto, diciamo che i soldi pubblici un po' ci hanno messo le mani sopra anche loro, diciamolo, ci hanno tutto messo... tutto quanto in Italia si tutto Mariuolo, pure io. Vabbè. Perché pure io in piccola parte sono un piccolo evaso, che hai fatto, no? Pure te hai evaso un po' di soldi, tutto, che hai fatto? Adesso non mi ricordo. No, dico tutto quanto, qua nessuno, se ci mettiamo allo specchio ognuno qualche cosa ha fatto. Qualche noi... cosina ha fatto, qualche... Ma noi siamo un popolo oramai un po' allo sfascio, siamo un po' allo sfascio. Cioè siamo tutti un po' evasori fiscali, dici tu. Ma sì, ce lo permettono, però ce lo permette anche uno Stato che ci fa, che vuole l'80% dei nostri soldi, se non si fa una buona legge. Ma anche tu ogni tanto provi a eludere, come si dice, a eludere il fisco o no? Io non lo faccio perché ne pego proprio i soldi, vedo direttamente mia moglie che è la cassiera, per cui ma che non gestisci niente, non li vedi proprio i soldi. Non so come sono fatti, per questo sono rimasti con i piedi per terra, non conosco l'euro e la lira. È come quelli che vanno in giro, Parenzo, però questo è un segno di grande ricchezza, come dire, se non so. No, quanti... di grande ricchezza. Di che cosa? È per non farmela vedere la ricchezza, perché spende tutto tua moglie i soldi. Sì, fa tutto lei. Senti, ma Maradona lo assolveresti tu? A Maradona? Sai che c'ha un impiccio per evasione fiscale, poi il suo avvocato sostiene che per carità lo Stato ha sbagliato e tutto eccetera. Fosse per te sarebbe già... Maradona sicuramente deve pagare come tutti. Se davanti alla legge, se si ha torto, bisogna che uno... Che uno paghi, cioè non è che è un grande cantante o è un grande giocatore. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma in Italia fa ridere questa. Un po' sì. Fa ridere, voglio bene, e che parliamo? La legge non esiste in Italia, non ci sa. No, quindi... ma che per carità, la legge più che altro viene interpretata in mille modi, diciamo la verità. Se la Guardia di Finanza, l'altro giorno su Libero, Parenzo, c'era quel racconto pazzesco dei finanzieri che vanno a pescare esattamente dove possono pescare per fare budget, per fare un budget mensile, per le promozioni dei generali, degli ufficiali, perché eccetera, eccetera. Questo succede perché vanno a colpire quelli che già pagano le tasse. Questo era il racconto che faceva quell'ufficiale della Guardia di Finanza su Libero. Quando sono andati con quella magnifica retata fatta a Cortina con quelle macchine, ma non serve a niente, ma falla finita, ma non serve a nulla, e le sirene e quei negozi che dichiaravano 30 ma come euro. come sei veramente, ti piacciono i lampeggianti della macchina alla fine. Io quando vedo scorrazzare quelle macchine con i signori in divisa verde e le luci sopra a velocità altissima per le strade alla ricerca degli evasori, beh, caro amico, io lì godi, godi. Che guardare, ma esagerino, diglielo tu che esagera. Meglio che guardare gli porn, guarda. Ma esagera, dai. Ma c'è una bella coppia comica là, Come ma... comica? No, comica nel senso buono, nel senso buono. Ogni tanto veniamo a gratis a presentare qualche concerto tuo, facciamo un'introduzione con grande piacere. Beh, però gratis, adesso parla per te. Gratis, gratis, che ci frega, ma che ci frega. Parenzo sta prendendo le distanze. Ma Parenzo, sai com'è attaccato al quattrino, attaccato. Vabbè, gli dica a mia moglie che gli dà qualcosa pure a Parenzo. Perché tu tanto non decidi niente. Non decido un cazzo io. Ma com'è possibile, Nino, che non decidi niente? Ma ti giuro, tu non mi credi. Cioè, ma pure per comprare. Quanti soldi hai in banca, lo sai o no? Non so niente, voi non mi credete, non so niente. Ma scusa, i pantaloni, chi te li compra, i vestiti? Mia moglie. Ma dai, tutto tua moglie, questa era come... Chi è che... Io ho un parente, adesso non posso dire chi è, che non fa niente. Ha guadagnato nella sua vita un po' di soldi, perché ha fatto un mestiere che gli ha fatto guadagnare un sacco di soldi. Un parente molto vicino a me. Ma chi è? E che la moglie fa tutto, gli compra i vestiti, le mutande. Non posso dire chi è, perché magari poi si incazza, scusami. Cioè, non è che qui... Questo amico tuo è uguale a me, guarda, uguale a me. A me mia moglie compra... Fa tutto lei. Infatti, pure le mutande ti compra. Io faccio solo qualche intervista quando è scomoda. Pure le mutande ti compra. Le mutande? Solo a Capodanno la compro io. Ma la compravano quando ero più giovane. Sì, quando insomma quando facevate sesso, perché ormai quando. No, ogni tanto una picchiatina. La famosa picchiatina. La famosa picchiatina. Una volta ogni due mesi, dai, si fa ormai. Da quanto sei sposato, Nino? Sono sposato mo mettono un guai perché ma come non ti ricordi da quanto tempo sei sposato? Sono sposato dal 79. Se scopri ancora te bisognerebbe metterti una corona in testa, cioè sei un caso raro dal 79. Ma io quando gli altri dicevano io ne ho fatte 3, io dicevo sempre una, io ne ho fatto 10, sempre una. Poi ci sono quelli che dicevano ho fatto 3 e dedica sempre una. Comunque, vabbè, in tutti questi anni qualche scappatella l'avrei pure fatta, io credo, però vabbè, qui non si può dire perché sono succede. No, ma che facete gossip, perché voi siete una trasmissione che parla di altre cose. Che mi chiedi, Cruciani? Vabbè, così ormai ero preso dal discorso sul sesso, mi è scappata la frizione là. Senti, ma Berlusconi l'altro giorno ha detto che le fiction sulla criminalità, adesso ce n'è una per Sky che si chiama Gomorra, da Saviano, portano, come dire, danno una cattiva immagine del Italia. Gomorra, per esempio, ha dato una cattiva immagine della Campania? No, secondo me Gomorra, il libro Gomorra ha fatto, secondo me, il libro e il film hanno fatto una bella campagna contro la mafia, contro la camorra, contro un sistema. Soltanto che dopo tanti anni bisognerebbe incominciare pure a parlare. Io vorrei dire a Saviano, si scrive anche un bel romanzo e racconta anche un po' dell'altra Napoli, cioè non è solo basta Gomorra, non bisogna mai mollare, però Napoli non è solo quella, vuol dire che assolutamente. Ho capito, però quello è specializzato in queste cose, perché poi dovrebbe raccontare delle cose positive, dici tu. No, pure, però lui stesso, capito, perché siccome è un bravo scrittore, mi piace come scrive, sì. E poi è bravo, ha fatto un grande servizio all'Italia, sì. A Napoli, ha fatto tutto quello che volete, però dica, adesso sgomorriamola un po', mi piacerebbe fare un film col titolo Sgomorra. Un titolo? Perché Sgomorra, dici? Ti ricordi quando io feci Titanic invece di Titanic? Sì, come no? È sempre un film sull'ironia, così. Poi fece Tano da morire, che era un film sulla mafia, comunque... Era molto ironico. Sì. Sarebbe bello un film Sgomorra. Sgomorra. Sgomorrare un po', nel senso non mollare, perché non bisogna mollare. Persone come Saviane ce ne vogliono miliardi. Però qualcuno che parli anche bene del lato della città, sì. Perché di Napoli oramai si parla solo di questo. Non è un po' esagerato pure questo? Sì, sarà esagerato, però qualche problemino c'è, Nino, ancora non c'è. Sì, assolutamente. Senti una cosa, ma quel film che hai detto te, ma non è che c'è, con chi era? Con la Began, c'era pure la mitica Began, Sabina Began. Ah, Italic, brava, la Began. Sabina Began, lo sai che è il mio mito, io La peregina. Ma che hai fatto qualcosa pure con quella, no? Ma mitica. Il film. No, su Setti c'è sempre mia moglie. Che con i soldi in mano. Sì, c'è sempre mia moglie su Setti, quindi non può succedere mai niente. Ma sei veramente ai domiciliari, sei? Sì, hai visto? Invece di darla a Berlusconi, l'hanno data a me, hai visto? No? Senti, ma un'ultima cosa, Berlusconi che ha i servizi sociali, che effetto ti fa? Ma fa ridere. Perché ti fa ridere? Perché? Ma non fa ridere questa cosa, perché hanno fatto tutto sto casino. E poi alla fine sette giorni per una pena di ferire. Se o si fa o no, insomma, voglio dire. Cioè, sta pagando poco, dici tu. Secondo me non sta pagando come paga un ragazzo che sta rubando una lacettina. Cioè, paga più uno che fa uno ship che uno che fa una cosa più grave. E con no? questa... O e che con... lo scippatore non deve pagare, Sì. La legge non è uguale per tutti. Però tu dici, uno scippatore paga più di quanto ha pagato Berlusconi per la frode fiscale. Secondo me sì, uno sì, paga di più. Lo scippatore che non ha... che a partire dagli ultimi, diciamo, quello che non ha proprio niente, quello là paga sicuramente. Comunque io voglio capire, il 25 di maggio, elezioni europee, cosa metti, a cosa scrivi, Grillo o PD? Questa è la scelta, diciamo la verità. Nino? Sono un poco confuso. Sei confuso, Sono molto confuso. Com'è che la zanzara, com'è, ti viene una strofa per la zanzara? Ti è venuto mai in mente qualcosa da cantare per la zanzara, no? No, perché le odio le zanzare. Hai ragione, tranne noi. Ci massacrano. Tranne noi. Invece è bello, tutte le sigle mi piacciono. La sigla del primo anno, del secondo anno mi piaceva moltissimo. Non la mettere più. Ma qual è? Non mi ricordo, era molto simpatica. Va bene, Nino, presto, ti saluto. Che voto dai al tuo sindaco, al sindaco della tua città, De Magistris? Un voto... Non lo so, nemmeno là è un casino. 4 in questo momento qua non hanno gli strumenti neanche per è un casino. Adesso uno parla male dell'altro, l'altro non si fa niente di tale, si sparla solo. Lo so. A presto, bisogna ciao. Farsi un esame di coscienza. No, bisogna farsi un mazzo le così. Coscienze malate. Bisogna farsi un mazzo così sempre. Ciao Nino, ciao. Ma siete una bella coppia comica là, È ritornata prepotentemente la rubrica dei violini. Questa volta è dedicata a Giovanni Toti, caro Parenzo. Ah, mio amico, perché a Toti? Aspetta. Perché pubblicherò un selfie con Toti adesso? Parla più forte, se non si capisce una sega. Adesso pubblicherò tra poco due cose in serata. Probabilmente pubblicherò un selfie con Toti. Sì. E in esclusiva le 24 stanze della casa di Cruciani. No, tu hai fatto delle foto a casa mia dove hai dormito ieri sera, diciamo sì. La verità. Diciamo questa cosa qui. Ieri sera hai dormito a casa mia. Pubblicherò le foto. Ti sei messo a fare delle foto a letto, sì. Ad altre perché la gente deve sapere. Ma cosa deve sapere? Deve sapere dove vivi e deve sapere che quando io sono tornato a casa mentre tu eri lì a fare la TV con la sua d'amico, tu gentilmente mi hai detto tieni le chiavi di casa. Beh, ma certo. Io fai quel che vuoi. Apro la porta, sì. E trovo la luce del bagno accesa. È vero, hai ragione. Ti scrivo, guarda che c'è il bagno acceso, e tu dici sì, la servitù ha lasciato la luce del bagno accesa. Lo licenzierò. Ma te l'ho detto? No, non l'ho detto, te l'ho scritto sì. per pigliarti in giro. La quale servitù? Ma quale detto. Servitù? Non ho la detto servitù. Così, ma non dire cose come del... nel Medioevo. Ma l'ho scritto per prenderti in giro. Asserragliato, ma quale castello? Che i precari vengano sotto casa tua. Ma figurati, se ho paura. Asserragliato, cioè. In quel castello. Ma assolutamente non c'è nessun solo, castello, è una modesta abitazione. È una modesta abitazione in Milano, vicino al Parco Solari a Milano. Adesso pubblicheremo tutto nel ma non pubblichi un cazzo, te lo impedisco. Pubblicheremo tutto, guarda. Ma quale pubblico? Ma guarda, la gente deve sapere che è curiosa, tu ti metti sempre in piazza e ora vai l'occasione per. Ma perché devi pubblicare le foto di casa mia? Ma sei impazzito? Cioè. Tutto, ma che tutto, devi pubblicare? Sei pazzo? Pubblicheremo tutto. Ma poi fai intendere che vivono in una reggia pazzesca. Pubblicheremo da gente. Ma è una modesta abitazione. Modesta, con un terrazzo pazzesco. Mamma mia, che orrori. Sì, che orrori. Sì, è vero, stiamo parlando. Piante esotiche che provengono dalla foresta pluviale. Ma quale piante esotiche? Ci sono due piante che la maggior parte delle volte si seccano perché mi rompo i coglioni a mettere l'acqua. Cioè. Sono tempi duri, Sì. No, per noi no, però, per noi non sono duri, ma non ce ne frega niente, scusa. Allora, però eravamo alla rubrica del violino che riprende, riprende di gran carriera. Intervista Giovanni Toti a 7, intervista dell'amico Vittorio Zincone. Accostare il proprio nome, questa è la domanda, a quello di Dudù, equivale ad attirare su di sé gag e sfottò. Vabbè, domanda generica. Io e Dudù andiamo d'accordissimo. mentre aspetto il presidente giochiamo insieme. Va bene. Lei e Dudu. Sì, giochiamo con una palla rivestita col copripallone che Razzi ha regalato a Berlusconi con la scritta tormentone. Te lo dico da amico, fatti di cazzi tuoi. Dudu colpisce di testa da grande bomber. Io crosso e lui incorna. Dai, su. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Mi dovrei fare. Spesso mi dovrei fare i cazzi miei, sì, è vero. Luigi, provincia di Firenze, buonasera. Buonasera, Crociano. Da tanto vengo subito al dunque. Ho sentito all'inizio della trasmissione che si chiedeva qual è la sorpresa di Berlusconi. Il colpo finale, come l'ha chiamato? Colpo grosso, ora non lo volevo dire. Colpo grosso, che c'è una mitica trasmissione, magari ce ne fossero. Che viviamo in tempi straordinari, abbiamo avuto due papi santi con due papi che celebravano. Ora c'è un altro miracolo per Paolo VI, vuole che il più grande uomo politico che abbiamo avuto non abbia un miracolo, un miracolo, l'unto del Signore farà un miracolo a Cesano Boscone e spazzerà via tutti i magistrati, tutte le toghe rosse e finalmente sarà non solo il padre della patria ma... Ma lei dice, lei dice sul serio? Ma le sembra. E che ne so io? Lei dice sul serio o no? Questo, se ascolto la sua trasmissione e mi fa questa domanda rimango deluso. Luigi, evidentemente non capisco l'ironia, cioè quale miracolo farà? Quale sarà il colpo finale ai servizi sociali? Cosa si inventerà? Oggi ha parlato di Milan, ha detto. Farà un miracolo, diciamo ci sarà, ora io con tutto il rispetto per le persone che hanno un familiare colpito da questa malattia, mi dispiace proprio, mi dispiace, però... Però? Non dico che, diciamo, come la suora guarita da Papa Giovanni Paolo II dal Parkinson, che ora, diciamo, uno su Spinoza ha detto che è in cold working, ma diciamo, ora guarirà qualcuno, farà un miracolo. E non so se si ricorda, qualche volta l'avrà sentito dire da qualcuno, diciamo, di quelli... del circolo di Berlusconi, che Berlusconi ha poteri straordinari, allora? Ha calmato degli animali, ha fatto delle cose straordinarie e quindi diciamo farà un miracolo, io non mi posso aspettare di meno di un miracolo. Vediamo, magari qualcosa, magari qualcosa per i malati di Alzheimer, che ne sappiamo. Caro Parenzo, eccoci qui con Giulia Innocenzi, buonasera, ciao Giulia. Ciao a voi. Come stai? Complimenti. Oggi benissimo. Oggi molto bene, grande successo bisogna dire, ne parlano tutti, almeno tra di noi, poi alla fine di questo si parla, addirittura leggo sull'Huffington Post è nata una stella, ma è roba che uno dovrebbe anche impaurirsi, dovrebbe, se fossi un uomo ti toccheresti qualche cosa, scusami se te lo dico. Infatti portano sempre meglio le critiche, che finora ne avevo ricevute sempre tantissime, quindi adesso sono un po' spaesata. Sei un po' spaesata, tocchi anche ferro, diciamo la verità, quando leggi certe cose. Però voglio dirti che oggi il tuo amico Gasparri, che te stai invitato, immediatamente invitato da noi, ma per altri motivi in realtà, poi ci è venuto così l'idea di chiedere, ma hai visto ieri sera il successo che ha avuto? E ti ha definito una belina rossa, così la so, simpaticamente. L'originalità di Gasparri si emerge sempre. Comunque diciamo la verità, sicuramente non lo inviterai nel tuo programma. Gasparri è una mazza Auditel. No, ma non è vero, non è detto. È non una mazza Auditel. Ma non trattarlo così. Purtroppo mi sa che devo dar ragione a Parenzo. Ma è davvero così, dici? No, dunque sicuramente non lo inviterai, diciamo. Ma non lo so, tu ti attaccheresti alla TV per guardare Gasparri, non lo so. Vabbè, quando c'è qualche battaglia, ogni tanto funziona, quando c'è battaglia. Comunque, vabbè, Belina Rossa però è brutto, Belina Rossa, non è bellissima. Brutto, non è originale, se l'era inventato Belpietro quando insomma avevamo litigato in TV, quindi Gasparri magari se si inventa un'altra formula posso anche andargli dietro e divertirmi anch'io. Senti una cosa, ma lo sai Parenzo che in realtà ha battuto Santoro, così scrivono, io non so, non mi intendo molto di non mi intendo molto di questo coso, ma è vero, hai battuto Santoro? Possiamo dirlo che è una grande cavolata? No, e dillo tu, amico. Devo dire. No, perché sta trasmissione con chi l'ho fatta, scusa? Con Santoro, certo, con tutta la struttura. Certo, con Santoro, con la squadra di servizio pubblico, con tutta la continuità, eccetera. Quindi figurati ho battuto chi oltretutto Santoro di record ne ha fatti, per cui è una cavolata, dal 34% di Berlusconi a scendere, quindi figuriamoci, una cavolata. Però è andata bene, però è andata bene, siamo contentissimi. Sì, senti una cosa, ma chi è il prossimo? Ah, appunto, no, vogliamo sapere se ci saranno tutti. Il prossimo, non so se magari riuscite a convincerlo voi, perché noi vorremmo noi Berlusconi, magari, dai, chissà, Berlusconi la prossima e quello dopo Grillo. Vabbè, questo Berlusconi secondo me viene. No, Berlusconi in mezzo ai giovani là, perché non è controllabile la cosa, cioè è più a suo agio con Santoro quando ci sta. Però Renzi ieri se l'è cavata benissimo. Vabbè, Renzi lo sappiamo è molto abile. Però anche i politici secondo me ne possono giovare con questa immagine fresca, vivace, dinamica, altrimenti diciamo che i soliti talk non aiutano, no? No, quello sicuro, però sai, il problema è che Berlusconi messo là in una situazione incontrollabile, se ne può sempre uscire uno che magari selezionate, che gli dice mafioso, dell'Utri, ragazzi, vergogna, capito? Cioè, non è posso... potrebbe essere divertente. Ah, quello sicuro, per lui non lo so, però. Cioè, Senti, vabbè, ma... non ha troppo da perdere, ma... però, ha solo da guadagnarsi, che sotto al 20. Senti una cosa, ma tu che voti il 25? Però adesso bisogna essere trasparenti qui. Ancora non ho deciso. Ho sempre annunciato il mio voto, anche l'ultimo, quello delle politiche, quindi ho sempre detto per chi voto, però ancora non ho deciso. Secondo me Tsipras. No, Tsipras. Quale Tsipras? No. Ma quando mai? Ma assolutamente no. O Grillo o PD? No, ma che Grillo? Forse Grillo no. Secondo me vota Renzi alla fine. Alla fine vota Renzi. Dai, Giulia, voti Renzi, dai, su, dimmi che devo ancora vedere poi chi è candidato nella mia circoscrizione. Cerco di fare un voto elaborato. Elaborato. Senti, tu con chi stai? È inutile chiederti tra Santoro e Grillo con chi stai, perché qui c'è ormai una guerra termonucleare tra Santoro e Grillo. Oggi Santoro abbiamo pure fra chi attacca i giornalisti e chi invece difende la libertà di informazione, sto con il secondo, quindi sì, con Santoro. Con Santoro, d'accordo, però qui mi puzza qualcosa, perché al di là del fatto che sicuramente c'è stato questo elemento della libertà di stampa, le cose che Grillo dice sui giornalisti, però che mette i giornalisti alla gogna. Sì, alla gogna, sai, poi alla gogna. Pure di Grillo ne dite di tutti i colori, c'è Bauro che dice che lo avvicina a Hitler ogni volta, cioè ai nazisti, ai fascisti, anzi l'idea del fascista apertamente, non è che, cioè, pure lui, no, qualche ma Vauro è anche sotto attacco da tutti questi attivisti del web, chiamiamoli così. Vabbè, ma lui pensa davvero delle cose di Grillo in questo modo, per cui non è che ci fosse, come tu stai sicuramente dalla parte di Santoro, vabbè, dunque Grillo non lo voti, diciamo, non voterò mai Grillo, diciamola tutta. Io non escludo mai niente. Sei diventata diplomatica, questa è incredibile, Parenzo. Cioè adesso uno fa il diventa. Io sono allora, Cruciani, ti dico: tendenzialmente potrei andare lì ed annullare la scheda, però non escludo di invece fare un voto un pochino più e quindi scegliere qualcuno. Però ancora non ho deciso cosa ti devo dire, me lo devo inventare. No, per carità. Parenzo, dove sei? Volevo sapere come sta anche il signor Piff, per me è una coppia d'oro. Ma perché no? Devi chiedere di Piff? Chi se ne frega? Stanno insieme. Ma sei attaccata a queste cose? Cioè, non glielo chiedo. Non glielo chiedo io stavolta, dai. Non glielo ho chiesto io perché non c'è niente da chiedere. Come sì. Ma come sta? Ma che te ne frega a te di dirlo in radio come e sta? Allora, ma è meglio parlare di Piff che non di quelle cose che ha vomitato Gasparri all'inizio di questa appunto, trasmissione. Meglio Piff che Gasparri. Cioè, vabbè, quello per te sicuro. Siamo un po' tutti d'accordo. Per te sicuro meglio Piff che Gasparri. Ma usciresti a cena con Gasparri ad esempio? Cioè piuttosto di se fosse l'unico uomo rimasto sulla terra, cosa faresti? Sì. Digiunerei. No, beh, la cena d'accordo, ma se fosse l'unico uomo rimasto su in un'isola, l'ultimo. Gasparri e le Innocenzi, come va a non finire? Non procreerei, anche perché la specie sarebbe un pochino inquinata. Addirittura? Come inquinata? Dai, pure tu. Oh, ragazzi, ma non penso che anche lui sarebbe interessato. Su Twitter mi dedica un tweet ogni 2x3. È ossessionato. Non si è capito perché si è fissato con me, ma infatti, quindi... Non c'è pericolo, se ci trovassimo su un'isola uno dei due probabilmente andrebbe in mare. Senti una cosa, ma tu hai dato una sobria definizione dei poliziotti che hanno applaudito i loro colleghi condannati per la vicenda Aldrovandi. Come li hai definiti, di grazia? cara signora Innocenzi? Mi sembra di ricordare, autocitarsi non è mai bello, però penso pezzi di merda. Dai, su, pure questo. Pezzi di merda. Non è sbagliato, eh? Ma te come definiresti? Come, te come li definisci? Guarda, non è più nemmeno di quelli che chiedono la revisione del processo per altre persone. È successo a quelli del PDL, allora, pure quelli del PDL che sono andati davanti alla tribuna di Milano sono dei pezzi di merda. Anche quelli che sono... Perché? Perché c'è l'assassino di mezzo? Perché cosa? Perché quale certo, motivo? Perché c'è un ragazzo steso per terra ammazzato da quattro poliziotti condannati in via definitiva, ti sembra poco? Io su questo neanche oserei scherzare. No, ma non sto scherzando, mi sembra letterale. No, d'accordo, so, per te sono dei pezzi di merda, per me sono delle persone che hanno fatto magari un gesto sbagliato, esagerato, ma chiedono la revisione perché pensano che quelli là non siano colpevoli o comunque non siano da... No, non chiedono la revisione. Beh, come quei no? Poliziotti che hanno applaudito, assolutamente sì. No, ma se tu vai a chiedere... Sono solidali con quelli perché pensano che, almeno quel sindacato lì, perché pensano, il capo del sindacato l'ha detto chiaramente, perché pensano che la condanna sia sbagliata, dunque chiedono la revisione. Eccoci qui, la Zanzara, ancora con Giulia Innocenzi, conduttrice di Anno 1. Ottimi risultati ieri alla prima puntata. Poi vedremo, ovviamente. E intanto Berlusconi ha detto, caro Parenzo, che è assurdo incarcerare Scajola perché ha aiutato un latitante. Cioè, perché ha aiutato... Perché per lui, perché si vede che lì in quel partito è abbastanza... è pratica normale. Cioè, ha aiutato uno che era già latitante. Ma evidentemente lì in quel partito è pratica normale che Verdini abbia dei procedimenti penali con accuse gravissime in corso. È pratica normale che signor Scajola avesse le chiavi della Reggia. A lui sta... No, Scajola, Cosentino. Accusando la, sta protestando con l'arresto, per l'arresto. Ma dov'è la notizia? Ma no, ma infatti non è la notizia. Non c'è nessuna notizia. No, ma sarebbe se dicesse: oibò, ma come mai? Ma è gravissimo che un ex ministro degli interni abbia aiutato qualcuno a fare, che poi è tutto da verificare se davvero stava aiutando qualcuno, eh. Però... hanno appena pubblicato il cedolino. Il modello con cui verranno distribuiti gli 80 euro. C'è proprio una cosa apposita che significa credito articolo 1 decreto legge 66/2014. Questo è un po' propaganda. Con scritto 80 euro. Cioè questi 80 euro si vedranno fisicamente in busta paga come voleva Renzi, capito? Propaganda. Cioè si vedranno fisicamente in busta paga. Allora io voglio provare il tasso di renzismo di Giulia Innocenzi con una domanda molto semplice. Secondo lei gli 80 euro sono una mancia, cioè uno spot, anzi no, spot elettorale, oppure una cosa che farà ripartire in maniera grandiosa l'economia? Sono una genialata elettorale, non una mancia, una genialata elettorale che sicuramente gli porterà voti. Il maestro di sta roba qui è Berlusconi, quindi assolutamente. Renzi su questo si è messo sulla scia di Berlusconi. Dopodiché non credo assolutamente che gli 80 euro aiutino la crescita, se lo dicono gli economisti, o è una misura stabile che la gente sa che ce li avrà anche l'anno prossimo e quello dopo, oppure non servono a niente, la gente se li mette in tasca, giustamente non se li spende. Capito? Tasso di renzismo basso. Io aspetto dopo le elezioni europee, voglio vedere Renzi cosa farà sul mercato del lavoro, perché al momento ha fatto poche cose, quelle cose. Purtroppo non fa quello che voglio io, non fa quello che voglio io, che non è quello che vuoi tu, cioè tutti precari e nessun assunto, io vorrei. Tutti precari, cosa vuoi tu? Tutti a tempo determinato e nessuno a tempo indeterminato. Questo vorrei io. Tutti, no, anche... io sono per il modello ichiniano, potremmo quasi trovarci, però lo vedi? Me i precari licenziati, te li lascio in mezzo alla strada. Io invece vorrei ammortizzatori. Vabbè, quello certo, quello certo, quello certo. Vabbè, quelli quello... universali. Invece Renzi adesso cosa ha fatto? Ha fatto votare con la fiducia al Senato una piccola precarizzazione in più e non ha toccato. Sono d'accordo con te. Però una revisione totale del mercato del lavoro, che in Italia è uno dei più inefficienti in Europa, ancora non si tocca, perché nel momento in cui Renzi metterà le mani sul mercato del lavoro capiremo se è di destra o di sinistra. Ancora speriamo che sia da destra. Scusa un attimo, ma dopo questa esperienza ritorni nei ranghi oppure vuoi ormai fare la grande conduttrice televisiva? Diciamo la verità, c'è l'anno prossimo. Che fai? Questa io è la... sono nella squadra di servizio pubblico, quindi assolutamente per cui non, a disposizione. Non condurrai un programma l'anno prossimo, a settembre. Vedremo cosa faremo. Senti, allora, quei poliziotti per giudicare sono dei pezzi di merda. Diciamo, quelli che hanno applaudito sono dei pezzi di merda. Allora, il punto è questo, caro Cruzani, che quando succede una cosa tipo i poliziotti che ammazzano Aldrovandi si dice sempre ma sono solo delle mele marce. Okay. No, ma pezzi di merda, vuol dire un'altra cosa. No, aspetta, e io ci sto a dire che sono delle mele marce, però se la categoria non prende le distanze da queste persone e non sono i poliziotti per primi a voler prendere le distanze da chi fa cose del genere, a ma quelli pensano che siano innocenti, alcuni pensano che siano innocenti, quelli che hanno applaudito. Ragazzi, ma se allora non c'è mai una verità in questo paese non andremo mai avanti. Ho capito, dobbiamo avere delle verità. È come Parenzo per Sofri, è come Parenzo, è una verità. È come Parenzo per Sofri, ma scusa, ma Sofri, tu sei convinta che sei innocente, per esempio? Allora, Cruzani, le forze dell'ordine devono essere i primi a rispettare sentenze, cose, perché rappresentano lo Stato. Ma quello è un sindacato che ha applaudito, io non dico che hanno fatto bene, io sto dicendo un sindacato che ha applaudito dei colleghi perché pensano che siano innocenti, innocenti. Tu, questo è il punto. A parte che non abbiamo chiesto a tutti quelli che hanno applaudito perché hanno applaudito e cosa pensassero. Io penso anche che ci sia una grandissima insofferenza da parte dei poliziotti e delle forze dell'ordine, questo assolutamente comprensibile. Però rispetto ai cittadini, e quello è il messaggio che vogliono mandare. Io spero di no, purtroppo però lo stanno facendo. Va bene, Giulia, ciao, a presto. Ciao. Abbracci, ciao, ciao, cari, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Giovanni Campobasso, Giovanni. Sì, buonasera. Buonasera, buonasera. Che dici? Allora, dall'ultima telefonata che tu mi hai detto che mi dovevo rivolgere a Di Pietro. Sì. Di Pietro ha detto che la crisi non è dipesa da lui, quindi ti ha mandato un po' pure a quel paese. Ma non mi ricordo nemmeno quando è stata l'ultima volta che è venuto Di Pietro qui, non mi ricordo. Mi ricordo io. Vabbè, che vuoi dire, Giovanni, che vuoi dire? Ecco, la telefonata era questa, che Renzi, la sua grande propaganda delle 80 euro al mese per chi lavora. Sì. Ecco, e poi dice che li fa comparire in busta. Dunque? E perché non lavora? Per chi non lavora, sì, quello è un problema. Per chi non lavora è un problema. Problema. È un problema. Ecco. Sì, sì, poi sì. Arriva l'euro, arrivano gli comunisti, no, i comunisti, scusa, chi? Gli economici. Economisti, bravo. Bravo, io quello bravo. Mi riferisco. Non è che ci vuole sta scienza. Vabbè, Giovanni, grazie. Silvano da Bergamo. No, fammi finire. E che ne so, e non finisci. E fammi finire. Arrivano gli economisti e dicono che un centesimo, i due centesimi non li fanno più e quindi i prezzi vanno a salire anziché a diminuire. E gli 80 euro Renzi te li ha dati con due mani e se li riprendono con quattro. Questa è una vera e propria propaganda di Renzi. Vabbè, Crisi, sì, Giovanni, ciao, ciao. Ti ho portato ai nostri microfoni, caro Parenzo, in questa conclusione di giornata, in questa conclusione di settimana, un personaggio che sicuramente ti farà emozionare. Barbara Spinelli. No, si tratta di una ragazza, di una signora, di una giovane donna, diciamo così, residente in Spagna, si chiama Cristina Navarro Espinosa. Buonasera. Salve, buonasera. Come veramente sta? Sarebbe Espinosa Navarro. Espinosa Navarro, Cristina. Ma non Espinosa. È parente di Navarro Valls. No, non c'entro proprio niente con lui. No. Trattasi dell'ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, caro Parenzo. Siamo al top qui, Cristina. Espinosa Navarro, stupendo. Bravo. Senta, dove abita lei a Madrid? Che è interessante questa cosa. Dove abita? Io abito in centro. In centro, che quartiere? Abito in un quartiere che si chiama Tribunal, ma siccome so quello che mi vuoi chiedere, è accanto a Chueca, che serve il quartiere gay di Madrid. Cioè, tu abiti accanto al quartiere gay di Madrid? Sì, è il quartiere accanto, diciamo, sono nella accanto. Frontiera. Pensavo qualcuno mi aveva detto, abita proprio vicino al quartiere, vicinissimo al quartiere gay. Non vorrebbe dire nulla. Proprio nella frontiera, vestino. Ma tu sai che Alessandro ti ha messo nel suo spot elettorale per amore di mia moglie? Lo so, ex moglie, ma vabbè è uguale. Ha messo anche Orazio, il mio gatto. Orazio e io siamo molto onorati di essere tra quei personaggi, proprio quando l'ho visto, detto Dio. Immagino che tu hai un grande rapporto con lui, cioè hai un rapporto molto stretto, eccetera, nonostante quello che è successo. Senti, ma certo. Ma quando l'avevi notato nel corso del tour, mi chiedo scusa. Ma è vero che fate le vacanze insieme, tu con il tuo compagno e lui con... Sì. Ma lui ne cambia un sacco di compagni. Sì, lui ha avuto importanti. Tanti. Fa bene, perché la vita è una, bisogna approfittare. Carpe diem, per quello il mio gatto Orazio si chiama Orazio. Ma vedi che ex mogli, ragazzi, che ex mogli, ma dovrebbero essere capito, tutte... Ma di cosa è gelosa? Voglio dire... Ma di nulla è gelosa, ormai, no, che deve essere gelosa di che? Cioè... Però scusi, se il suo marito, se il suo ex marito l'avesse lasciata magari per un'altra donna, magari non l'avrebbe... Sì. Questo non vero, l'avrebbe presa così sportivamente. Può darsi, infatti io non mi parlo con nessun ex, cioè ex marito solo uno, ma ho ex compagni o diversi. Ho una solo certa con lui, età, diciamo, solo con lui. Voglio dire, il fatto con che... Il fatto beh, che anche Fiorcetti... perché Alessandro, sì. Scusa, sto interrompendo. No, no, vai, vai. Anche perché Alessandro è un gentiluomo, cioè è un una gentiluomo. Persona per bene, una persona che... Sì. Nella vita incontri certe persone che non le vuoi perdere. Certo. Allora si cambiano i ruoli, magari. Non senti, Cristina, appunto, ma quando hai scoperto che lui, quando ti sei resa conto che in realtà, come si dice da queste parti, era un po' frocio? No. Ecco, diciamola tutta in maniera esplicita. Allora, diciamo, la certezza è quando lui me l'ha detto, più certezza di quella. Vabbè, prima qualche sospetto ce l'avevi. Sì, negli ultimi mesi del rapporto sì, e all'inizio no, perché ovviamente io non sono pazza, non è che sposo qualcuno che non gli piacciono le donne, no? No, certo. Nei primi momenti del rapporto per niente, un rapporto totalmente normale, tutto, fino a che lui, normale in tutti i sensi. In tutti, cioè avevate rapporti sessuali, tutto certo, normale, sì, tranquillo. Certo, non è che sono rimasta vergine durante il matrimonio, no. Non è che prima, per cui... Poi a un certo punto lui ti ha detto, guarda, a me piacciono gli uomini. A un certo punto, dopo qualche mese, ovviamente ogni rapporto quando entra in crisi, qualche mese di crisi, sì. Che quando io ho cominciato il mio sesto senso, che fino a quel momento sì. Non c'era stato motivo, perché era tutto assolutamente normale. Normale, sì. Ma in realtà a lui piacevano altre cose. Mesi, sì. Quasi un anno. Sì. Lui me lo ha confermato, questo sospetto che io cominciavo a avere, ma che anche dici, ma come mai avevi questo sospetto? Giravano intorno strane persone, si circondava no, di... No, strane persone mai, ma... Strane, insomma. Allora, quando cominciano a mancare certe cose in un rapporto, sì. Ti cominci a chiedere perché. Immaginiamo cosa, insomma. Io dico, mi guardavo e dico, vabbè, io non sono un mostro, non lo so. Lui dormiva, a letto dormiva, invece di... dormiva, dico, ma... E poi ti ha detto, guarda... Non era più attratto dalla zia. Diciamolo così. Poi a un certo punto l'ha detto, guarda, a me piacciono gli uomini. Questa sì, è... me l'ha detto un giorno. E tu? Sei rimasta un po' sconvolta, di la verità. Allora, una parte, sì, certo. Cioè, non è che ho detto, oh, ok, non succede niente, ciao, vai, rimaniamo amici. No, ovviamente no. Certo. Sono rimasta sconvolta perché anche se stavo avendo quel sospetto, non te lo aspetti comunque, no? Beh, certo, soprattutto... Sì. Non so, magari sei pronta ad altre cose nella vita. Ma ormai è scatenato, ormai lui solo uomini, ormai lui, è proprio... Sì, penso di sì, solo uomini. E vabbè, io lo capisco, a me piacciono solo uomini anche, per cui lo capisco benissimo. Beh, sì, vi potete incontrare, diciamo, da quel punto di sì, hai visto mai? Non abbiamo gli stessi gusti per niente. No, lui piacciono giovani, giovani. Voglio capire, mai successo, signora, ad esempio, che lei ha sfilato al suo ex marito uno dei tanti, come dire, compagni che in questo periodo lo hanno e che non ho capito l'inizio. No, ha detto, non è successo che lei magari ha corteggiato qualcuno dei suoi fidanzati, no? No, non mi piacciono. Mio tipo. No. Mi piacciono... Senta, però in quella cosa lì poteva mettere qualcosa di omosessuale, cioè lui ha ringraziato il Papa per amore del Papa, per amore del Berlusconi, per amore della mia ex moglie, sembra che è tutto casa e chiesa, ex moglie, eccetera, un sì, disastro. Sì, lo so, non lo so, questo dovete chiederlo a lui. Ma lei perché che cos'è oggi per lei Alessandro Cecchi Paone? Che cos'è? Come un difficile definire, perché come un migliore amico, un fratello maggiore, un fratello, lui in questi anni mi ha aiutato in molte cose, tipo un rapporto mio che è finito, io piangendo, lui sempre mi ha confortato, mi ha aiutato in tante cose, tante cose. Consigli o poi ci divertiamo molto insieme perché abbiamo un senso dell'umorismo abbastanza simile. Alessandro ha un grande senso dell'umorismo, condividiamo. Va bene, cara Cristina, io l'abbraccio tantissimo, a presto, un bacio. A presto, bacio. Sia bene, cara. Una bella voce, signora Cecchi Paone, ex signora Cecchi Paone. Veloce, Silvano Bergamo, Silvano. Sì, buonasera. Vai. Datemi il numero della signora qua che mi ha fatto arrappare. Addirittura, Silvano, ti ha fatto arrapare. Sì, la voce sessuale. Ti ha fatto arrapare. Ti ha fatto arrapare come? In che modo? In che modo? Non di sicuro come quel frocio del suo ex marito. No, dai, Silvano. Sulla stazione. Niente, brutto culattacchione di un cecchi pavone. Niente, volevo dire a, al bassotto Parenzo di stare zitto, perché solitamente i bassotti abbaiano e invece lui raglia. Vabbè, ci allora... sentiamo lunedì alle 18.30, ma che deficiente questo, dai. Che le odio le zanzare. Ci massacrano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Allora c'è qualcosa che non funziona. Radio 24. La passione si sente.